4 minuti. Chi è che fischia così male? Ciao Gianni. Ehi, sono io quello che fischia, L'ho detto per farlo uscire fuori, perché sennò lo fischiano e poi non entra. Vabbè, io sto facendo un po' di pulizia, Carlo. Ti saluto, dai, sto qua in ascolto, però sto pulendo la casa. E va bene, anche io mi ero in ascolto, ma prima ho sentito Alessio un attimo e infatti qui tu silenzio, ma ero dentro, capito, l'ho sentito come tanto qualche fischia. Come? Già sono qua io, già, non ti preoccupare. Sì, non me ne volevi perché l'ho detto apposta per farla entrare. Sì, va bene. Avanti, chi c'è sul canale 10? Attenzione canale 10 se c'è qualcuno in ascolto. Eccoci. Buonasera Carlo. Allora Luca. Antenna piazzata senza regolazioni ed è perfetta di rosso, così, senza neanche stare a tarare nulla, va bene così, è ottima. Meglio così, al primo colpo, bene mera. Hai avuto modo di provarlo quella questione? Guarda, da adesso dimmi se cambia qualcosa. Ehi, vai, fai un altro passaggio. 1, 2, 3, prova, così siamo base, base senza vitamine. Sì, sì, fallo con quello. 1, 2, 3, prova. Sì, si sente anche la radio più forte, praticamente da 9, fai no, anche 9.40 qua mi arrivi con quello. Capito, è oscillante però aumenta notevolmente e la radio è perfetta, non toccare niente, antenna eccetera, se il ROS ce l'hai basso lascialo così. E K va bene così allora. Ma chi è Luca? Luca da questa parte. Non mi dire che hai piazzato l'antenna. Sono un cibitaro di antenna munito, piazzata stamattina, grazie a Dio c'era il sole, è stata un'installazione veloce e un aperitivo lungo dopo. Scusate, l'ingresso alla gamba tesa, ciao Carlo e tutti quelli in rotta. Sì, 9+30, a questo Smitter di baracchino pseudo omologato sei 9+30, ma sei liscio, con le soli watt del baracchino. Tappa i 4 watt del Midland Alan 48. Ma è straordinario, vabbè che bene o male via l'Italia, linea retta siamo a portata ottica sicuramente con le antenne, però straordinario, vai Carlo. Sì, tu il controllo che gli puoi dare tu, che è l'antenna esterna, è più, diciamo, è più giusto e perfetto. No, il segnale è perfetto, anche la radio qua arriva benissimo, a voglia. Vabbè, i prossimi collegamenti saranno minimo con la Cina. Quando c'è propagazione ti divertirai, perché hai una bella posizione, Luca. Là è tutto aperto e quindi se spari appena in banda laterale, poi non se ne parli. Guarda, io ho provato a attenuarvi. Carlo tutto attenuato arriva a 3.5-4 e Luca arriva a 3. Carlo vabbè ha l'antennino, però per avere i watt normali o ne ha geniali, meglio così, buono per la truppa. E vabbè dai, io mi sto aggiustando con quello che ho. Niente, il ROS non sono riuscito a farlo scendere, ho provato diversi fili accorciando, niente, risaldando, nulla, sempre così, però è un'antenna diciamo difficile, diciamo da tarare bene, questa vorrebbe messa proprio sul tetto più che al balcone. Adesso prossima settimana vedo un po' se mi procuro qualcosa di che vada meglio, tipo una boomerang, capito? Così la piazzo e buonanotte ai suonatori, e poi quando avrò la possibilità andrò sul tetto. Luca, quindi come ti è sembrata? Decente, no? Come costruzione, eccetera. Poi guarda, quella staffa L, secondo me è la configurazione migliore per le antenne. Capito? Non c'è isolatori alla base di plastica che si rompono, che partono, eccetera. Ah, vediamo, mi sembra molto fine, cioè la Mantova 1 che avevo prima, che, vabbè, stiamo parlando di 25 anni fa, era pesante come antenna, era robusta, più rigida. Questa è molto fine, mi sembra che smandiri un po', mi dà quell'impressione, pesa solo 1,5 kg, come tutto compreso. Però c'è scritto che l'antenna più fine è meglio resiste al vento, perché insomma fa meno vela essendo più fine. Speriamo regga. Adesso si è prevista la bufera per mercoledì, gli faremo il collaudo mercoledì a vedere se tira. No, già tiene. La mia è simile, guarda, non so se il tubo alla base abbia lo stesso spessore, però potrebbe essere. Guarda, se non è 20 mm, adesso non mi ricordo quanto sia il diametro, però occhiometro, se non è 20 mm è 25 la mia, ma siamo lì. Va bene, signore, vi devo lasciare che sto facendo delle cose in casa. A dopo nel caso, vai Carlo. Sì, tranquillo, oggi siete tutti fattimbini. Anche prima è entrato Gianni un attimino, mi ha detto che sta pulendo in ascolto. Lo lasciamo pulire. No, io le pulizie me le ho fatte i giorni scorsi, già è piccolo il mio appartamentino e quindi faccio veloce. C'ho il Dyson, quello Submarine, che lo posso usare anche come lava pavimenti, e nel giro di un'ora metto su tutto e mi faccio aspirazione di tutto l'appartamento. Eppure mi lavo i pavimenti, apro le finestre, asciuga tutto e poi la sera riscalda tutto e non se ne parla più, capito? E niente. Tu Luca, cosa fai di bello? Che bravino che sei. E io per le pulizie di casa c'ho il Roomba che tutti i giorni alle 10 si attiva e si fa il giro dell'appartamento e mi aspira quanto c'è. E da quando ho questo Roomba sono rinato, perché avendo l'appartamento col parquet molto scuro, ogni alicata di vento si calava la polvere, soprattutto in estate, poi con le finestre aperte per arieggiare c'era sempre quel velo di polverina che si vedeva perché dava all'occhio. Da quando c'ho Roomba qua, il robot, sono rinato, è una figata. E lo credo, sì, conosco quegli aggeggi, sono molto pratici e insomma ti aiutano parecchio e spazzolano via tutto, vanno anche sotto il letto, capito? Dove trovano ostacoli poi tornano indietro e insomma passano un po' bene tutta la superficie. Belle invenzioni. 40-50 anni fa ce le sognavamo, adesso invece sono alla portata di tutti, dai, meglio così. No, io qua già mi districo bene con quello che ho per adesso. E stavo guardando adesso su YouTube l'isolamento dei cassonetti dove c'è l'altra serranda, no? E vendono tutti i kit, sono perfetti, capito? Adesso vedo un po', tanto io non ho molte finestre e ne devo isolare 3. Piano piano adesso mi compro i kit e poi a uno me li faccio. Così diciamo si disperde anche meno il calore, capito? E allo stesso tempo d'estate non ti entra il vento caldo di Scirocco, eccetera, capito? Quindi se li isoli bene, diciamo ti garantisci più caldo d'inverno e più fresco d'estate. Ma mi sei cliccato? Sì, dimmi. E allora mi sei sotto le battutine, ciao, buonasera. Ui, Tony, e allora? Guarda, fino a poco fa lavorato, per carità. E mi sono fatto una bella pedala piccolina per l'autoclave che ho installato stamattina. E quindi l'ho dato anche quel prodotto che rimane plastificato. Così là non ne fa niente, poi devo fare la casetta. Ruota sotto il circolare. E guarda come senti Luca adesso, che ha piazzato l'antenna esterna. da Viale Italia. Allora sentirà meglio anche a me. Avanti Luca, ciao. Ciao, buonasera, buonasera e ben sentito. Ora ti sento bene rispetto all'altro giorno, perché ricevevo male con quello giocattolino. Ora ti sento proprio chiaro e fortissimo. Meglio così, dai. Pensare che sono fuori Sassari, sono in zona, diciamo, Cesarini, è molto distante da te. Ecco, ma sembra che sia nel portone, perché sembra di toccarti, la radio e il segnale sono più che ottimi. Guarda, io sono vicino all'ospedale San Camillo, ti ho detto tutto. Caspita, è dall'altra parte rispetto a me. No, no, proprio perfetto, perfetto. Vabbè. Allora, Carle, tutta la settimana sono fatto il mazzo, trabaccato. Anche io che sabato e domani, che domenica, abbiamo un'altra mezz'ora, la devo fare. Vabbè. No, ma non ti risparmi niente, Tony, sempre a fare. Io lo stesso mio, ogni tanto, un po' per noia e un po' per passione, ti guardi qualche tutorial e ti vengono in mente le cose, mi sa che faccio una cosa, poi passi a farne un'altra, capito, sempre cercando di migliorare qualcosina, dai, senza spendere troppi soldi, perché quelli se no non bastano mai. E vabbè, dai, così almeno passa il tempo bene. E niente, e io mi oggi di riposo, domani rientro di mattina, stasera c'è alle 8.45 Cagliari Juventus, adesso sta giocando il Napoli, però non me la sto vedendo, sto guardando il risultato qua sul computer. Niente, serata così, dentro casa, sono uscito un pochino stamattina, mi sono visto con Luca e basta, e poi oggi casalingo. A te il mic, Tony. Niente, quando stavo trabaccando, che mi sono preso una pedana gigante, bella grossa, pesante, caricata in macchina, molto qua, tagliato con il segreto alternativo, fatta a misura come Dio comanda. Insomma, poi mi ha chiamato mio fratello e dice, ma lo sai così oggi? Ho detto, certo, oggi è sabato. Ma non ci vieni, che ci divertiamo, cioè, in tal posto, c'è l'appuntamento, ha detto Mario, la GPD. Io penso al lavoro, io penso a domani, e domani cos'è? Vengo oggi a divertirmi, domani? No, io domani cazzo soldi, la sapete. E quindi ho detto, quando ci sarà la possibilità che posso riposare, non devo fare niente, allora ci divertiamo, non c'è problema. Per il momento rimango qui e continuo a fare come stavo facendo. Ho guardato già la foto alla persona in cui devo dare questo autoclave, questa pedala piccolina. Contentissima, ha detto non ti fermi un attimo, ho detto no, bisogna sapere cosa da fare. Sì, non parliamo, diciamo, di tutto che è aumentato, perché è un casino, addirittura il pollo che te lo tiravo la faccia adesso sembra carne di vitella. Avanti Luca. Ma le indicazioni e le direttive per stasera quali sono? Dobbiamo tifare Cagliari o Juventus? Dillo a Carlo, perché io col tripallone non me ne affronti nulla. Il mio hobby è l'interesse e il lavoro conto mio e punto. Allora Luca, diciamo che io da sardo un po' di cuore per il Cagliari ce l'ho, però sono tifoso juventino dalla nascita, capito? E quindi mi auguro che la Juventus vinca, ma non perché ce l'ho con il Cagliari, perché così almeno rimane in zona Champions, eccetera. Poi se dovesse anche pareggiare va bene comunque, capito? E se vince il Cagliari, meglio che vinca il Cagliari che un'altra squadra contro la Juventus, capito? Diciamo che sono abbastanza sportivo, poi vincerà il migliore, dai, chi fa la partita migliore, chi tira di più in porta e segna, vince, e il calcio è così. Però, capito, a volte ci sono anche le contestazioni, rigori che non sono rigori, rigori che erano rigori e non vengono dati. Il calcio è sempre quello, Luca, a te il mic. Ma io il calcio non lo seguo più, perché ho un'idea tutta mia dello sport, e vedere il calcio, e vedere questi mercenari, e vedere le scuole di calcio che insegnano i bambini a buttarsi in aria per procurarsi rigore, la vedo come l'antisportività. io provengo dalle arti marziali e la vedo in maniera attualmente diversa. Nonostante fossi juventino da ragazzino, e sempre da ragazzino ho seguito la Torres in trasferta in tutta Italia, poi però la verità me ne è scesa, mi è sceso il mondo del calcio. Stasera forse per noi, visto che non devo fare niente, mi guarderò la partita lì su Sky, ma giusto per curiosità, non più di tanto. Esatto, io lo stesso lo faccio, se ho altro da fare di più importante, anche io me ne sto in giro oppure sono a lavoro, a volte lo fai come passatempo, diciamo, e capito, per organizzarti un po' la serata. Stasera ho la pizzeria io sotto casa, quindi alle 7:30 scendo e mi ordino la pizza, alle 8:15 è pronta, capito? Mi porto sulla pizza e così faccio a mangiare la pizza e poi inizia la partita. E niente, poi domani mattina mi alzo presto perché c'ho il turno dalle 6, quindi parto alle 5:25, esco di casa, a quell'ora non c'è traffico, 5 minuti sono giù a Bretagneta e poi sono altri 20 minuti all'aeroporto, per cui arrivo perfettamente in orario, se meno 10 sono sempre là. E niente, e poi adesso c'ho 4 mattine e me le devo fare tutte. A te il microfono. Tonino, cosa fai di bello? Cosa faccio? Lavoro. Chi è che stava cercando di parlare sopra modulazione, ma non ci passava con Carlo? Chi è? Ma Luca, eri tu? No, c'era uno la settimana, parlando sopra, ma non passava con Carlo. Niente di bello. Il mio motto è lavorare, quindi sono di pensione troppo giovane, forse dopo 7 anni, cosa vuol dire? Faccio 5 anni che sono in pensione quest'anno, ma ho tanta di quell'energia che mi piace per lavorare, quindi continuo a lavorare, conto mio, faccio, disfaccio, penso, faccio così, faccio colà, invento, sì. Uno mi cerca di fare una cosa, io gliela faccio a modo mio, glielo dico, lì va bene così, sono bene, faccio come vuoi tu. Sì, se con l'idea buona fammela e poi ti faccio. Capito Carlo? Si lavora e basta, non penso altro. E le giornate mi scorrono così velocemente, ho detto porca miseria, stiamo invecchiando anche prima. Ma io con tutta questa età non me la sento, la verità. Grazie a Dio, energia ne ho anche da mettere. Tutto questo. È meglio così Tony, dai, e si fa quello che si può, io sono così lo stesso. Io mesi scorsi stavo dando una mano ad un amico che si era fatto male, e si è fatto la frattura scomposta tibia e perone, e però lui abita ad Alghero, è solo, e poi c'è anche la schiena messa male. E quindi uscivo da lavoro, dall'aeroporto, passavo ad Alghero, andavo a fargli un po' di spesa qua e là, eccetera, aggiustavo qualcosa ogni tanto perché anche lui non fa nessuna manutenzione, si rompono maniglie, si rompe il rubinetto, miscelatore, e anche io ogni tanto mi presto a fare questi lavoretti per amici, capito? Giusto per tenerti anche in forma, dai, e se le sai fare, c'hai la manualità, le cose, e anche io diciamo che mi aggiusto e non chiamo mai nessuno, sia elettricisti che idraulici, non li conosco perché faccio da me piano piano, qualche piccola base ce l'ho anche di elettricità e quindi già riesco a fare quasi tutto. E insomma, è meglio così. Luca, anche tu penso che già ne saprai qualcosa di collegamenti elettrici, perché era il tuo lavoro per tanti anni e quindi qualcosa ti sarà rimasto, vai pure. Tubo e canala per fare gli impianti industriali, tiraggio cavi e collegamenti da impianti d'allarme a impianti elettrici industriali, a trasmissione dati, a fibra ottica, già ne ho masticato tanto di quello. Adesso invece, ed ero più acritico, perché tra avvitatori, scale, trapani, tassellatori, almeno mi muovevo con quel tipo di lavoro. Invece da 20 anni, più di 20 anni a questa parte, sono seduto in una scrivania ed è uscita la pancia. E quella una volta che esce poi dura a morire. E io lo stesso, prima non ne avevo niente pancia, perché ero sempre in movimento, però è ovvio che poi crescendo con l'età non puoi fare più le cose che facevi a 25-35 anni. Diciamo che io sino a 45 anni facevo di tutto e di più, capito? Io da lavorare in campagna, raccogliere fieno in campagna di amici, capito? Con trattore in rimorchio, balle che insomma pesavano, ho fatto di tutto di più, dal lavoro di impiegato a lavorare in vetreria, e ne ho fatto, ho lavorato anche per il tribunale, recupero crediti, balle svante, già te l'ho detto, ho lavorato anche 10 anni al Banco di Sardegna. Sempre lavorando, quando avevo giorni liberi lo stesso, ad aiutare amici, però adesso non ne ho più voglia, no? Cioè faccio qualcosina quando mi va e basta, senza strappare, capito? E penso che sia un po' il destino di tutti quello, dai, ma è anche fisiologico che a un certo punto ti devi anche un pochettino riguardare. L'unica cosa che mi è rimasta è che quando arriva la primavera me ne esco in bicicletta, ne faccio un bel po' di chilometri, quello sì. L'inverno un po' di meno, perché col freddo non mi va tanto di uscire. Vai pure. Chi è che voleva entrare? Caffa, Brecco, San Pini, volevo un Radio Santiago se possibile, grazie mille, cambio. Ciao San Pini, Santiago Loco, Radio 5. Andate, allora già sta funzionando. Com'è il tempo? Guarda, non dico che c'è il sole perché non ci credi. Com'è il tempo? Certo che sia saluta la mia sorsa, adesso io. Ho capito. Avanti Carlo. Chi è? Perché c'avevo lo squelce alto e non sentivo niente. Adesso l'ho abbassato e ho sentito le ultime parole, ma non ho capito chi è. È Sampi da Sierra Oscar, Sosso. Sampi, guarda se mi senti a questo passaggio. Sampi. Gaffa, dimmi. Copio solo a te, però gli altri non li sento. Addirittura. Mi sembra strano, Carlo, che a te non ti sente, sei una bella zona alta. Attento Sampi, l'altro giorno ti ho mandato i saluti, però non ti sentivo. Oggi invece ti ricevo bene e ti sento distintamente. Luca da questa parte. Un assist in game, però. Nel senso proprio, Luca. Vai adesso Luca per Sampi. Sì, Sampi, salutoni. L'altro giorno ti ho mandato i saluti, ma non ti sentivo con la magnetica del terrazzino. Ora che ho montato l'antenna invece ti sento bene. Saluti da Viale Italia. Caffaro Jerry, cambia i saluti, ti sento forte e chiaro, adesso ti sento bene. Andave. E niente. Mi sono fatto una pennichella, me ne sono bisogno e sono potuto cantare tutto un altro. Carlo, come mai non ti sento a te? Io lo sento, si è fatto una pennichella e si è alzato tutto stontonato. Lo sento anche bene, Santiago 5-6, capito, non è molto alto, ma lo sento, lo capisco bene, lui non ce la fa. È lo stesso problema mio, Tony, cazzo, io lo ricevo quasi 9, Edo a me non mi intendi, fatti un gol tu, c'è un problema mio. Ciao Claudio, a me arriva 9-5, è perfetto, a me mi sente bene, infatti... Carlo è abbastanza alto come zona, caspita. Ma è un problema suo, ma se ti sto dicendo che io lo ricevo 9, ma come ti vemmo, qualità prezzo, se io lo ricevo lui mi deve ricevere, no? Io lo ricevo 9 S9 attaccato e lui a me non mi sente manca morire, quindi figura di tu se è un problema mio, io non me ne creo problemi, è un problema suo. Ciao Luca, 5 9 più 10, finalmente ti sento fortissimo. Salutone, con l'antenna è tutta un'altra cosa, anche per me. Ci mancherebbe altro. 9 più 10 Radio Super 5 Claudio Sparviero. Ok, rimango in quel Rix, ragazzi, dai, tanto Giampino non mi intendi, quindi ciao anche a Carlo, ciao a Tonino e chiunque sia qua in agguato. Il cambio per te Tonino, fai girare, rimango in quel Rix. Ok Claudio, buon Rix allora, dai. sempre forte qua, arrivi tranquillo, anche se sono una zona nascosta, io in caso una moto è bella già, dentro tutti e già mi sentono, chi mi può sentire ovviamente, poi se poi uno mi sente pazienza. Ok, Claudio, avanti, va Claudio, Carlo, avanti. Eia, ciao Claudio, sì Luca adesso è di un altro pianeta, capito? È salito sulle stelle e già va bene così, dai, meglio così, almeno qualcuno si sente bene. No, qua arriva fortissimo, 9 più 10, radio 5, senza problemi. No, Tony, ma te ti sente perché sei vicino a lui, nel senso sei libero per lui. Io ho capito, se mi sente Franco di Ciorso, S9, Edo è a 20 metri da Franco, Edo non mi intendi. Ma gli ho compreso una cosa, vabbè, io comunque lo ricevo, forte e chiaro. Ciampi, chi ci antenna, lampa gira, aro comodo, cambio. Oh Sabri, non lo senti né a Claudio e neanche a Carlo, così è. Oh Claudio. A Claudio lo sento un po', a Carlo no. Però non lo so io se è una questione d'antenna o cosa, non lo so. Io c'ho, ti ripeto, una Gain System, quella nuova bianca in fibra di vetro. E pone il mulinello e vai a peccato al retto. Claudio, dimmi. Aspetta un secondo, ti sta chiamando mio nipote in FM su questo canale. Vediamo se lo senti, 2 minuti. E poi ti lascio andare tranquillo. Prova Daniele. Chiama Claudio Spaviero. Sì, che ti sento. Franco è più in alto di me, quindi l'antenna di Franco lo sorpassa il monte di Sinuri. Magari io sono in una zona d'ombra, sono un po' più in basso e quindi magari qualcosa e non ce la faccio a ricevere a loro due. Però il resto mi sento tutti. Oh vabbè, comunque lo sento Antonello, non ti preoccupare, già lo sento, dai, sennò questo qua si va a casino. Luca, riprendi e fai girare. A tutti i dini, Sampi, ripeto, ribadisco, a chi si antenna, buono il mulinello, e vai a Romullo a piccare, vai Luca. Mulinelli ne ho io in garage, se servono, e c'ho anche qualche amo e qualche piombo da qua, in qualche cassetto. E niente, io lo sento, però ripeto, da casa vedo le case di Sennori, per cui sì, Sampi ora lo sento bene. Ma anche io lo sento Luca, mi arriva quasi a 9, è lui che non sente a me, capito? Quindi ho la ricezione, ce l'ho, perché ho l'antenna abbastanza buona, ho una 7 ottavi, figurati, non è neanche una 5 ottavi, una 7 ottavi, quindi sto uscendo benissimo, è lui che ha problemi di ricezione nei miei confronti, perché io lo ricevo benissimo, Tonino lo riceve benissimo e si sentono perché sono a un tiro di schioppo, evidentemente c'è qualche ostacolo tra me e lui, anzi tra lui e lui, perché tra me e lui non ce ne sono ostacoli, se lo sento, vai Tonino. Ecco, il problema è suo, giustamente, io ripeto, ho un'antenna che non veramente manco un occhio, una 50 vedonda che ho comprato 60 euro, ai radiali corti, caricati, peligrosi in alluminio e mi stanno super bene. Io devo farlo, scarico tutta, tutto fatto manutenzione, pulita, trovato, risultato eccetera eccetera, tutto a posto, e l'ho rimontata e mi va troppo bene. Grazie a Dio mi sento bene e io sento bene tutti quanti, nonostante sono una zona Cesarini, tutto qua. Avanti Carlo. Sì, anche io Sampei lo sento, ma lui non ce la fa sentirmi. Adesso prossima settimana vedo se riesco a piazzare un'altra antennina che dovrebbe essere più prestante e vediamo un po' se almeno a Sorso, più vicino, capito, dovrei riuscire ad arrivare, anche perché a San Camillo arrivo senza problemi e Sorso lì e Sennori sono a un tiro di schioppo, quindi non credo che ci siano grossi ostacoli, proprio problema di antenne. Non so cosa dirvi, io ripeto, lo sento alla grande a lui, però lui non sente a me, vabbè. Ci sentiamo dopo, dai, che devo fare due cosette, ok? Vai Luca. No, comunque Daniele ti sente benissimo. Ti ringrazio per quello che gli hai risposto, non c'è problema, hai capito? Mi riporta, sto parlando lì. Quindi a un certo punto, tutto a posto, non c'è problema. Sì, sì, dille che lo sento benissimo alla grande, no, non ci stanno problemi da parte mia. Ok, vi lascio, ci sentiamo dopo, avanti Luca. Ciao Antonello, ascolta, ma avevi avuto modo di vedere quel Mike? Più o meno sì, la verità, perché sono stato male. Quindi a un certo punto sono stato 4 giorni ingessato, cato, dentro al letto, cato, quindi a un certo punto adesso ho migliorato, quindi a un certo punto adesso ci sistemo quel microfono così almeno si è a posto. Ah, sono contento che è sistemato l'antenna, quindi siamo a posto. Eia, adesso possiamo anche andare a Platamona, più tranquilli e rilassati, che l'antenna mi sorveglia tutto il palazzo e il circondario. Ah, già vabbè, meno male, è la ora che... Beh, sono contento, guarda, ti giuro, veramente sono contento. Almeno sei tranquillo, anche tu. Già me l'hanno fatta sudare, però hai sentito. Vabbè, ma cosa vuoi ti dica io? Piano piano, cosa vuoi ti dica? Bisogna a un certo punto girare le palle, e sulla me l'ha fatta anche a me, non solo tu. Non sai quanto mi ho passato io, peggio di te. Vabbè, adesso mi sono se la porta via il vento. Ah, è esagerato, dai, io tranquillo. Già sei poco negativo, sei a un certo punto, cara. Ci mancherebbe, cara. Cosa vuoi fare? La fine mia, cara. A un certo punto. Mettere la mantova, cato, la installo, cato, e poi mi ha trovato incendiata, no? Non esiste, no? Fregate, tranquilla, almeno sei a posto e va a far cuffia. Vabbè, meglio così va. Quello sì, la verità, quello sì. Luca, eccolo. Il mio segnale lì in via l'Italia com'è? Ma non conosco l'affidabilità di questo smitter perché l'apparato è vecchio, però mi segna 9 come segnale. Già è buono, dai. Già va bene, allora vuol dire che già sta funzionando l'antenna, anche se non mi fido, il ROS troppo alto e non riesco a mandarlo giù, quindi la cambierò. Sì, secondo me la soluzione migliore è una boomerang per te. Sì, esatto, metterò una di quelle e ciccia, e così vediamo un po' se migliora, lascio quella sino a quando avrò la possibilità poi di metterla sul tetto, allora sarà un'altra musica, come hai fatto tu adesso, Luca. Io adesso mi organizzo perché me ne scendo giù un attimino ad organizzarmi la pizza, mi scendo di sabato sera e magari per un attimo serve. Lascio la radio accesa, nel caso se ci siete ancora poi ci sentiamo più tardi, dai, adesso per adesso un saluto a tutti, Tonino, Luca, Alessio, Sanpei, Claudio e tutti quelli che sono in ascolto, anche Gianni che è ancora in ascolto, dai, ci sentiamo più tardi, io adesso faccio un attimo di bianco, a dopo. Vabbè, dopo non c'è problema, là. Ok. Adesso attacco l'apparecchio che ho modificato, vediamo se mi senti bene. C'è qualcuno che in pratica 27, sì, penso di sì. Tutti spariti sono stati. Aspetta. Adio, si sente la pernacchia e basta, pernacchione, però non esce la radio. aspetta, mi ascolti, sì. Ma molto male, capito, è il microfono saturo. Adesso 3, 4, 5, 6, prova, guarda. Adesso molto meglio, adesso la voce è chiara. Sì, prima no. Ah, ok, va. Stavo provando stamattina, che ho riparato più che altro, là, con il microfono che ho recuperato più che altro. Ho capito. E niente, io adesso niente, adesso mi organizzo, tra 5 minuti sto guardando se ho spicci da dargli, qualche spicciolo ce l'ho in cassetto, così mi faccio fuori tutti i minuti, capito? Mi ho preso una capricciosa, ce l'ho proprio qua sotto casa la pizzeria. E a volte già è comodo. E hai fatto bene la verità. Hai fatto veramente bene, A voglia. Ehi, così almeno non sto a cucinare, oggi non ne ho voglia di cucinare. Stamattina sì, già mi sono fatto qualcosa, però stasera, sabato sera, c'è la partita, eccetera, ho detto vaffanculo, mi ordino la pizza. Ero da un bel po' che non ne mangiavo, dai, ogni tanto già fa piacere. Beh, così, a voglia, ci mancherebbe. Gli altri sono tutti andati via, Luca, c'era Tonino, vabbè, Claudio ha detto che stava uscendo, Sanpeno mi sente a me, tu lo senti a Sanpeno da Sorso? Non so cosa dice, E Luca lo riceve bene adesso che ha l'antenna sul tetto, insomma, lui poi lo vede anche da casa sua, essendo da tutto aperto là, e quindi ha voglia. Ma io, insomma, a Sorso prima, quando ce l'avevo sul tetto, non avevo nessun problema. Ci arrivavo bene, certo adesso con l'antenna così sul balcone non è che posso pretendere i miracoli, dai. Già è tanto che almeno dentro Sassari riesco a farmi sentire, capito? Poi vediamo periodo estivo cosa ne esce fuori. Beh, questi, come sono? 5, chiara, come sono amplificato, eccetera, eccetera. È un apparecchio che mi hanno regalato questo. Allora, qua mi stai arrivando Santiago 9, capito, di segnale, però ovviamente con l'antenna sul tetto sicuramente mi saresti arrivato molto di più, però il microfono non è perfetto, capito, Antone, è un po' gracchiante, voce satura, capito, prima non usciva niente, poi hai abbassato qualcosa e sicuramente ha migliorato, però non è che sia limpida la radio, capito? Aspetta un secondo che attacco l'altro apparecchio, 2 minuti. Io sono sempre qua, anche se sto facendo, sempre facendo. Ehi, va bene Luca, io sono entrato un altro attimino, adesso tra 5 minuti sto scendendo a ritirarmi la pizza che mi ho ordinato, e niente, nel caso poi ci risentiamo, c'è Alessio, che sta cambiando radio perché aveva messo una radio che gli hanno regalato, ma non era molto chiara, capito? Alessio, ma la radio che stavi provando, che ti hanno regalato, la conosco? Okay. Adesso cos'è attaccato? Adesso è attaccato l'LMS 200. Questo va molto molto molto meglio. Lo so. Oh, yeah. Ah, ce va. Ma che dato va bene la verità, comunque sia, il discorso è quello. Basta avere l'alimentatore collegato a uno o l'altro e siamo a posto. E pompa. Va buono, dai! Scendo giù a ritirare quello che ho detto, dai. Ce la risentiamo tutte le prossime, grazie del QSO a tutti, dai, alle prossimine, ciao Luca, ciao Tonino se sei ancora in ascolto, a tutti gli altri, dai. Ale, già ci sentiamo prossimi giorni. D'accordo, adesso sono qua, non c'è problema. Ok, ci stiamo rimettendo domani, dopo domani, quello che è. Sta bene, buonanotte, buon tutto. Ale, dimmi. Controllami il segnale e radio in questo passaggio e poi te ne faccio un altro. 1, 2, 3, prova. Sì, 9, 10. Seconda prova. 1, 2, 3, prova. Quasi 9, 20, sì. E vabbè, sì, con te si migliora poco perché comunque le antenne si guardano. Eh beh, sono di fronte, lo sai, è logico, no? Quindi a un certo punto siamo di fronte, tra me è mostrato cosa voi ci siete di differenza, sì. Ma con chilometro siamo. E gappa, gappa. Comunque va bene, è strano che è stata la tua antenna, la verità, perché con questo giorno di oggi è strano, la verità, io non me ne sarei fidato, ma tu ho visto che hai avuto le palle sotto e è installato tutto, comunque funziona bene, la verità. Ancora vento, non vento, a parte che c'era il sole, ma comunque anche col vento io mi sono messo l'imbragatura e col cordino di sicurezza e mi sono legato col moschettone alla staffa, quindi male che va, cioè, anche per un malore, per l'equilibrio ero comunque in sicurezza, anche se ero a un'altezza del settimo piano col vuoto sotto, cioè, nonostante non è che sono andato alla macunazza, mi sono messo l'imbragatura, mi sono messo il cordino di sicurezza e ho lavorato tranquillamente. E vabbè, a parte che sia andata bene, Luca, la verità, io sono contento, sei tranquillo almeno, esce bene l'antenna, quindi è tutto a posto. Da me viene meglio, la verità, che già lo sai, quindi a un certo punto non è come casa tua, no, che devo io salire sopra il tetto, a un certo punto installare il palo, eccetera eccetera, poi salire su, poi scendere giù, eccetera eccetera, quindi da me invece viene molto, molto più facile, la verità. Buonasera anche a te. No, Antonio, la comodità mia è che sul fianco della cabina ascensore dove ho messo l'antenna, dove ho messo il palo dell'antenna, sul fianco c'è la mansarda, per cui salgo dal fianco, non sto neanche a mettere le scale, c'ho le due falde della mansarda del sottotetto che mi fanno da accompagnamento sino all'antenna, per cui niente scale o posizioni strane. Allora già va bene, ci mancherebbe, già va bene. Avanti Gianni. Ciao, buonasera a tutti, ho finito adesso di fare tutto, vi stavo ascoltando tutta la sera. Mi avete fatto compagnia mentre facevo le pulizie, dai. Carlo, andate via. Sì, Carlo, sì, Carlo ha chiuso. Vabbè, poi se magari c'è tempo di entrare, non lo so, questo non so da dirti, la verità, ma comunque sia, ha chiuso 2 minuti fa, neanche. No, ha detto che si guardava la partita dopo. Hai messo l'antenna, stai arrivando bene qua, prova a vedere. Sì, piazzata stamattina, ho controllato il rosso ed è tutto a posto, sì, sono contento. Sei 9.25 qua a casa mia, non so come ti sta arrivando io, poi tu arrivi 9.25, e la radio, me lo dici che radio stai usando, che tipo di microfono, perché è bella forte. La radio è un Alan 48 che esce di 4 watt, il microfono è un microfono CTE perché il suo originale non c'è, mi sta arrivando perché un altro mio collega ha trovato il microfono originale Midland in garage e me lo sta mandando, questo è un microfono adattato, è della CTE, però non è amplificato, è un microfono normale. Ma va benissimo, questo va molto bene il microfono. È molto forte, io non l'avrei cambiato con normale perché cupo, quello normale non è bella la radio. Vabbè, si proverà e poi tireremo le somme. Sì, sono prove già fatte quelle. comunque questo va molto bene, è una bella radio, presente, forte. Ma stai usando qualche cosa, qualche scarpetta? Scusa che non ti ho sentito, che ero lontano. Stai usando qualche amplificatore? No, zero negativo. Se vuoi ti faccio un passaggio anche con una spintarella. Prova. 1, 2, 3, prova, prova. Ma qua non mi aumenti nulla perché sei già... il segnale è già forte, quindi non mi aumenta, bisogna guardare in lontananza. Qua 9.30 il segnale. E anche qua quasi 9.30, 9.25 qualcosa. Aspetta che ti faccio sentire l'apparecchio tuo, così mi dici come esco. Il mio apparecchio? No, quello di cosa? Aspetta 2 minuti. Avanti Antonello sta cercando di entrare con l'altro apparecchio. Ma gli hai dato un apparecchio da aggiustare? No, gli ho dato un apparecchio che mi aveva dato un autista e niente, ce l'avevo in più. Ah, gliel'hai regalato. Ho capito, lui ce l'ha aggiustato così. No, niente, siamo andati a prendere un caffè, gliel'ho dato, l'ha collegato e funzionava. Ah, ma perché le stava mettendo a posto uno stasera, non so se era un lineare o cos'era. Non l'ho capito molto bene perché ero da una stanza all'altra e stavo pulendo. No, era un altro quello, era sicuramente un'altra radio, questa l'abbiamo provata assieme, funzionava e gliel'ho lasciata perché ce l'avevo in più. E che radio è? Una gemella della mia, un altro Alan 48. Eh? Già vanno bene, sono robusti quegli apparecchi, solo che prendono un bel splatto. Ma tu non hai nessuno vicino lì via Italia, quindi puoi andare tranquillo che ti splatte. Ma mi senti, sì? Sì, solo che ho le due mani impegnate e non riesco a rispondere al volo. Pensavo che non mi sentisse, perché non risponde, detto, ma strano. No, arrivi a palla e a manetta qua, sembra di essere dentro casa. Il segnale com'è? Non me lo puoi dare il segnale? 9.20. Ascolta, a me come ascolti? Sono l'apparecchio tuo, mi guarda un po'. Di lusso, c'hai anche la voce più bella, mi sembri Belen. Bello due. Guarda un po' com'è. Questo è il video che mi hai regalato tu, guarda un po' come va, tutto a posto? Già va, esce normale. Ah no, già sono contento la verità, quindi. Belen! Con l'F10 naturalmente, sono l'F10 come microfono, Il microfono amplificato, quindi figurati tu. Sono 15 watt e quindi sembra che vada bene con questo apparecchio qua, con Midland, quello che mi hai detto tu. Peccato che c'ha la mascherina sfasciata, altrimenti sarebbe stato anche presentabile. Deve essere che è caduto al mio collega. Se tanto sì, il discorso è quello. Cosa si può fare? Se avessi avuto una mascherina uguale l'avrei messa, questo è poco ma sicuro, se avrei attivato l'apparecchio, ti avessi tenuto indietro e ti avessi venduto a un certo punto modificato. Questo è modificato, è 15 watt, lo sai, sì. 15 watt e poi io ho aumentato la LC, quindi a un certo punto, figurati tu. No, c'è bello pulito. Com'è la modulazione? Buona, sì, perfetta. Picchi positivi, non ho capito già. Che ha dei picchi positivi, Logico, i media hanno questo modello qui, hanno quel difetto, hanno più positivi addirittura, hai capito? L'ho modificato in watt e tanto meno in LC, quindi figurati tu, non ho toccato nessun'altra cosa la verità, perché se gli metto due quarti e cose del genere, sale sopra e sale anche sotto, non so, cioè scende sotto, diventa a 120 canali questo apparecchio qua, il discorso è quello lì, ma comunque sia, adesso l'ho lasciato così com'è, comunque funziona, sono contento che funziona, la verità, adesso mi procuro il frontalino, se lo trovo, glielo metto dopo nuovo, dopodiché mi verniccio il sopra. Così a me diventa nuovo diventa. Tu via mi pari Maurizio Costanzo mi pari. Ah, salve. Gappa, buonasera. Buonasera lì. Com'è, a fine umidità in zona tua? Ancora sono occupato, salve. Mi sono fatto la doccia tardi, quindi con i capelli bagnati e con l'umidità adesso non ci voglio scendere. Prima mi rilasso un po' e poi scendo quando mi sono scaldato bene. Gaffa, e beh, andava bene, dai. E Tyson, la ghiaccio è ancora, non so, cuoti di carini a bassi miei. Sono bucato, se non mi avvisa Edo devo seguire una gara, perché l'ho portato anche dopo pranzo, oggi non stava bene, quindi l'ho portato giù e mi ha chiamato, l'ho portato giù ed era, aveva un po' di diarrea, quindi è sceso già, però dopo l'ho portato. Andava, magari si mangia un po' di erbetta come fanno loro, se no gli dai mezzo bugoni, gli dai un mezzo panettone con un bugoni e vedi che si diverte. No, se insiste le do la pastiglia di Normix come la prendiamo noi, le do Normix e li passa. Magari si ha mangiato qualche zerighetta, qualche cosa. Ma non mangia nulla, che quella bucerola che mi fa raggiosso. Non mangia nulla, tranne quello che gli do io. Era disposto e basta, tutto. Mangia sempre le cose quasi tutte uguali, fegato, cuore, pasta, crocchette. Ehi, ma magari lo fa magari un periodo dove capito. Pure i cani vanno come si dice, le influenze loro, va. No, già è tranquillo, già andava. E niente, questo clima di questi due vini io non lo comprendo più, però già è tempo giugno, adesso vediamo un po' se i giorni della merla fa freddo, vuol dire che entra un tempo bello, se i giorni della merla fa segaggio, vuol dire che l'inverno continua già vinta a maggio, dico. A maggio no, magari a aprile. Sti ci sono i diritti degli anziani. No. Chi lo sa, noi il tempo non possiamo comandarlo. Avanti, Luca. Stamattina stava bene, c'erano comunque 17 gradi e un bel sole. Stamattina sì, perché sono uscito col cane. Non si stava male, dai, era mite. Addirittura dopo pranzo sono uscito. Allora. C'avevo freddo. Ti ascolti, sì, Gianni. Cosa? Ho detto, se mi ascolti. Sì, ti ascolto lì, se no ti avrei risposto. Io che metto apparecchio adesso, sono con l'altro. Più che altro, dai. Stavo usando. Oh, yeah. Soltanto faccio girare uno o l'altro, quindi a un certo punto adesso attacco il portatile per parlare con mia nipote in PMR, quindi così almeno parliamo assieme e siamo a posto. Mi scendendo in bassi da un piano differente. Ho capito. Siete vicini, usate la radio. Vicini. Il Sasso di Rossi non è che sia vicino, la verità, ma comunque sì. Oh yeah. Oh yeah. E appunto, avanti, chi è? Oh yeah, chi è? Oh yeah. Ciao a tutti, dai. Ero rientrato per dire a Gianni ieri che poi ero tutto rintronato, poi è arrivata mia zia e quindi la serata è stata bruciata, già ha capito lui. Non c'è problema Marco, già lo sai che non c'è problema, anzi mi dispiace che eri addormentato, no, non c'è problema, l'ho messo da una parte, non ne uso più, basta, punto. No, ma per sicurezza già, se davvero c'ha rientri RF o qualcosa di più, cioè bisognerebbe darlo in mano a qualcuno a dargli un'occhiata, fare le misurazioni, vedere tutto in perenza quello che è, no, ma per evitare danni ad altri apparati, capito, non all'apparecchio stesso in questione. Va bene, io rilancio Luca, sono all'ascolto però, quindi parlate voi, vai Luca. Io mi sto guardando qua al computer, questo accordatore automatico che si chiama AT100. Marco, lo conosco questo AT100, io l'attino conosco, ma il 100 no. No, guarda, Roberto Quadrato una volta mi aveva detto di un piccolo accordatore, forse il nome può essere quello, lui lo usa nelle bande amatoriali, no? Ed è velocissimo nell'accordare, però non so se sia quello, ma una cosa proprio, primi la portante, una frazione di secondo, ta, accordato, bisognerebbe chiedere a lui se entra sul 10. Va bene, avanti Carlo, bianco per me però, non riprendo. Non c'è Carlo? No, Carlo ha chiuso, doveva essere la partita, si è ordinato la pizza, adesso fa il signore, se guarda la partita si mangia la pizza. Va bene, quindi girate voi, fate girare la ruota, avanti Sampei se mi copia. Scappa Roger che ti copio, ti sento basso ma già ti sento, e niente, e quindi che partita c'è? La partita dell'Inter, del Milan, cosa ne so, della Juve? Cagliari Juve. Allora viso Rigosi, i campanacci viso. Io sono contento se vince il Cagliari, perché siamo nella nostra isola, la muovere un rischio, un pallone via via nel muro potuto drappà, perché io per il calcio è meglio che mi mangio mezza berra di gaggio e niente, tutto qua già. Idem come sopra, anche a me non mi interessa il calcio, da giovane giocavo a pallone, ma poi io ho mollato tutto, visto che c'è troppa mafia, bustarelle, questo, quell'altro, non è più come te prima. Mio padre era patito, si guardava il televisore, si metteva le cuffie con la radio, si ascoltava la radio e il televisore insieme. Kappa, no, ma io guarda, io sono tifoso milanista da minoreggio, ma non è che sono tipo sfegattato, non me ne frega niente, se vincono vincono, un pallone sondomi. E invece c'ho amici che vanno al bar, cazzo si cannano, vieni lo scudetto, qui siamo noi, campioni d'inverno, boom boom, ma andate fedi con giri in paglietta. E i miei colleghi la stessa cosa, i miei colleghi la mattina quando rientravano, la lunedì mattina, cominciavano ci avevamo fatto i labbri, visto che dasse, là, che vai, che non è regalato, visto gol, eccetera, e sono così, certi sono proprio accaduti. Lo so, ma a me, non lo so, perché ci sono tanti altri argomenti quando si va tipo al bar o ci si incontra. Ma che cazzo, cari amici di calcio, da voi magari parli un po' di politica e dici che le cose stanno andando male, non è la fitti nuda, invece un calcio è di vivere di calcio, un calcio si mangia, un pallone, se è un calcio, non lo so, è come hai detto tu, c'è tutto un giro di soldi, di bustarelle, di trick e track, e da voi Trump ogni tanto anda e fu di 4 mesi e si qui tre già con. E la vintra la Trump. Avanti, lisci. Mi stava rispondendo mio nipote. In PMR, poi a parte quello ho sentito un altro che arriva molto più forte, la verità ci fatto e la ciucucciù mi ha detto mio nipote, cioè Alessia, dato non ha detto niente la verità, comunque sia, non so che cavolo era, ma arrivava forte, la verità, è stato qualche qualcuno della 27, qualcuno, non lo so. Ma Alessia è col gommino oppure c'è l'antenna esterna? No, c'è le portatile, mio nipote, già lo sai, col gommino, sì, bravo. E arriva così, tranquillamente. Eh beh, se sarebbe sì, quanto credi che sia la differenza? Sono neanche di pochi chilometri. Vabbè, ma la casa tua sì, la casa tua è vicina. Appunto per quello, quindi, infatti. Ma se tu parli da casa, conosci lontano, e dipende dove ti trovi. Fa voglia che se parlo da casa, se mi sento. Oh sì. Vediamo se sei tu, Alessia. Alessia, ci sei? Aspetto. Ah, lo senti? Ah, oh, sì. No, per andare verso il muro, quindi sto tornando. Daniele, hai sentito? Va bene, ok, Alessia, non c'è problema. Là. Ti ascolto comunque, non c'è problema. Sentito? Sì, si sente anche chiaro. Anche da Via d'Italia si sente. Ehi, alza, arriva forte. Stanno verso il muro, sta andandomi. Sto portatile. Già l'ascolto Ale, non c'è problema. Ma tu dove stanno? A muro si sta andando? No, sono quasi a Ossi. Ah, sei quasi a Ossi, sì, ho capito. Ok, là. Figurati tu. Ma tu sei da casa? Sì, io sono a casa mia. Daniele non so se è a casa tua, questo non te lo so dire, ma io sono a casa mia, con l'antenna esterna naturalmente. Quindi lei in pratica è comportata, l'hai capito? E anche il movimento, certo. Va bene allora. Tanto c'ha 5 watt portate. C'è il portatile, il Bofeng, c'ha. Il Bofeng che si è comprato il fratello. E poi c'ha il, come si chiama? Quello che ho io. Come si chiama? L'ultimo che ho preso. Quello è 10 watt, quello è veramente bello la verità. Come portatile. È di lusso quello. Quello che c'ha tre frequenze, quante frequenze c'è? 4 ne ha frequenze. Buono. Ormai non ne ho più di qui da parecchi, c'è solo 27 basta, perché se muovono a 27 sparisce. Andiamo tutti sul PMR e non ci va più nessuno 27. Quindi io devo portare avanti la 27, mi interessa quello. Ehi, c'è un altro modello che va in 27, l'8, 6, adesso non mi ricordo cosa cavo è, ma comunque il 27. Il mio no, il mio va solamente in FM, però quello va, l'altro modello cioè, va anche in AM addirittura, figurati tu, ma va veramente bene, è bello, è veramente bello. Io quando portavo il cane avevo un portatile che sono arrivato a Porto Torres dalla strada con le batterie e con l'antennino su col gommino. Sono arrivato a Porto Torres, parlavo con tutti mentre passeggiavo il cane, parlavo con l'apparecchio che sa che non è mirato un mammacco, ma insomma. Con cosa abbiate scemo col gommino? Un conto pigliato scemo cazzo con 1,20 m di stilo, come l'ha pigliato la stessa cosa a me, hai capito? E anche con cosa? Con Alessia, quindi a un certo punto Alessia ha provato con quell'antenna 1,20 m che l'hanno in dotazione, arriva tranquillamente a Sassari, 9,20 m arriva. Lo sto dicendo. Vabbè, ma tu c'è l'antenna sul tetto, per quello la senti lui. Se fossi stato tu col gomino, le col gomino, non lo so, se ne sarebbe stata la stessa cosa. Io parlo in 27, non sto parlando di TMR, naturalmente, quindi. Solamente in 27. tocca, ho capito. A parte a chi tocca, Luca. Luca sta spaziando e sognando guardando radio che hanno più pulsanti che manopole. Ma come ti fa? Ma uno che si compra una radio del genere, come ti, cioè come ci vuole una vita a imparare tutti questi pulsanti. E poi ci sono menu, sottomenu, quando devi regolare le cose, ci devi entrare, ci sono menu e sottomenu, non ti riguarda. E quello è il problema, forse è quello lì, piano piano devi imparare, devi seguire tutto a un certo punto, dopodiché una volta che lo sai usare hai fatto 13, il discorso è quello lì, ma pompa veramente pompa qua, questi portatili, sono di uso solo. Comprati un gas e risolto il problema. C'è O2, è stato un ecco l'altro giorno. Cosa ne vai? Non ne fai più niente, 220 euro non volevano. Cosa ne vai? Non fai niente. Lascia perdere. Ormai roba vecchia, hai capito? Cosa ne fai? Non fai più un cazzo. Cioè, a un certo punto 220 euro. Non ne vale più 220 euro, ne vale 150, quello che è. Poi c'era un'altra, voleva 300 euro, un'altra parecchio, eccetera, eccetera. Non lo so. Ognuno mette il pezzo che vuole, a un certo punto cosa lui fa? Vai a comprarlo, e cosa è? Non serve a niente, capito? Il discorso è quello. Cosa con lui? Dimmi. Aspetta, aspetta, sto parlando anche me, dai 2 minuti. L'ho sempre amato questo apparecchio, ne ho avuto 5 addirittura. Me 2. Ebbe 2. A chi piace, io sono gusti, a me piace perché è completo, come apparisce su tutte le bande, va bene, si sente bene, la radio è buona, questo è questo che sto usando adesso. E qui c'è anche l'eco. Avanti, sapete. Gappa, confermo, anche io sono, mi piace quello. Gappa, abbassa l'eco, mi detto puttasso. Attaccato così, ma è un bel forte, mi leggo, ti faccio 3 volte più forte. Ehi, no, questo questo apparato è bello, e poi come hai detto tu è bello anche a vederlo, e niente, come ti sto arrivando adesso già? Prova 1, 2, 3, prova Ciampi, Sozzo 9, 10. Già va bene, dai, ho acceso il linearetto. Prova a staccarlo. Prova di radio, 1, 2, 3, San Pizzotto, cambio. Santiago sì, che c'è poca venta? La stufetta, Ma qual è? 1231. Eia. E la funge bene, le segnali che aumenta. Va bene. Raga, io adesso vi saluto, dai, che devo portare il cane giù. Anche se non mi ha chiamato, sei drummito, dove se non sta bene, sei drummito, mi indovina. Adesso, come mi ha sentito salutando, dove si è alzato. Dai, buona continuazione, ci sentiamo. Apri. Eia già, a dopo, dai, ci sentiamo a dopo. Se magari coincidio, se no già prossimamente, andrà bene. Ava mi mangio una spianatina. Ma la birra. Con la Nutella? No. Prosciutto crudo e insalata. Ma questa voce ne si sente cos'hai? Stai ascoltando altre volte? E la radiolina, c'erano quelli Gogliamar, Porto Torres e tutti quanti la gasoliera, che erano i battenti. A non ridere, ciao, ci sentiamo Gianni, ciao Luca, ciao Alessio e ciao anche gli ascoltatori, ciao a tutti. Saluti, approfitto anch'io a salutare perché mi cucino qualcosa e poi mi guardo la partita. Buona serata a tutti, saluti Luca. Ciao Luca, buon proseguimento, ci sentiamo alle prossimine, andate, ciao ciao. C'è nessuno. Adò, adò, adò, adò, adò, adò, adò.